È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Gabriele da Bari, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Senta, io volevo intervenire a favore di Brunetta, nel senso che io sono del nord, vivo a Bari da qualche anno e quando ho sentito che questa sera ha aperto con la nuova idea di Brunetta ho sorriso, perché un po' provocatoriamente è la stessa cosa che avevo pensato io all'inizio. Cioè lei è uno dei mille? Sente uno dei mille? No, assolutamente no, però ritengo che vivendo in una realtà come Bari, dove sto io, mi sono accorto che i diritti qui non esistono, cioè nel senso tu hai un diritto se conosci qualcuno in comune, puoi avere un'autorizzazione se sei parente di qualcuno, eccetera. Quindi credo che un sistema, diciamo tra virgolette, sicuramente un po' rivoluzionario, potrebbe essere proprio quello di sostituire le persone in alcuni punti chiave con persone che non sono del territorio, che quindi non conoscono il malavitoso di turno, non hanno parenti, cioè non devono rendere conto a nessuno e quindi agiscono in nome e per conto, diciamo, della legge tra virgolette, utilizzando ora il termine super partes, perché mi rendo conto che effettivamente può sembrare un'assurdità. No, ma Gabriele, lei mi sta dicendo che è d'accordo con Brunetta quando dice è un problema anche di classe dirigente, tutti i problemi del Sud, è inutile elencarli, sono anche un problema di classe dirigente che bisognerebbe cambiare, cioè portare dal Nord una classe dirigente che non conosce certi meccanismi, certe clientele, perché attraverso questa sorta di rivoluzione può cambiare qualcosa, è così? Sì, secondo me sì, cioè inserire persone che non sono collegate al territorio e che quindi non devono, una volta per esempio una volta elette o una volta che arrivano in un centro di potere, dare il contentino a chi l'ha votato oppure al parente oppure all'amico e quant'altro, perché purtroppo qui è così, per fare una manifestazione in una piazza bisogna conoscere qualcuno, altrimenti la sovvenzione non arriva. Ho capito, cioè, sono molto, piccole cose molto che... chiaro, grazie. Angelo da Napoli, buonasera Angelo. Buonasera. Dica. Niente, volevo dire che ogni volta che Brunetta ha qualche idea, qualche cosa, siccome all'orizzonte si profila un temporale per i nullafacenti e fannulloni, e allora brucia questa cosa. Pure il signore che parlava dell'intelligenza, a volte proprio perché c'è molta intelligenza, gli addetti ai lavori fanno di tutto per trovare, per andare a cercare qualche cosa per scansarsi il lavoro. Non ho capito niente, Angelo. Comunque, lei sostanzialmente dà ragione a Brunetta. Certo, però l'intelligenza non conta niente, come diceva quel signore là. Pure quello che è venuto dopo ha fatto lo spiritoso, Brunetti, il giudice, Fabrizio D'Andrea, che c'è questa cosa qua? Qua il signore non ha mai visto il cassetto della scrivania dove c'è sta il quotidiano aperto, pronto per essere eletto dall'impiegato d'ufficio, tanto è vero che ci sta pure la storiella di quello, perché appena vedono che non ci sta nessuno, giustamente aprono il cassetto e si mettono a leggere. Vabbè, questo è vecchio, Angelo, non sarà mica ancora così. Poi si avvicina il poveretto che dice, scusi, una domanda, faccia la fila, e dice non c'è nessuno, scusi, una domanda, faccia la fila. Poi un'altra volta, scusi, una domanda, faccela fino, questo si scoccia, e scusi, il termine ce l'ha sputazzato in faccia. E adesso arrivano i mille di Brunetta, la ringrazio Angelo, però devo dire, mi scusi Angelo, devo dire che è bella a essere sentita, è bella anche come idea così, ma come si fa? È difficilmente applicabile. Cosa significa concretamente? Chi sono questi mille? Chi sono questi funzionari, questi geni del nord che vanno al sud a decidere le sorti del meridione? Chissà Lombardo cosa ne pensa il governatore della Sicilia, sarà furibondo con Brunetta. Simone da Genova. Buonasera Cruciani, complimenti per la conduzione brillante ed equilibrata. Vado al sodo perché preferisco essere telegrafico. Due cose. su Brunetta, a mio modo di vedere, è stata questa una provocazione. Francamente, però, devo dire, ho ascoltato prima il dottor Merlo, e devo rilevare questo. Quando non si condividono le idee, bisognerebbe contestarle nel merito e ricorrere alla psicologia, al fatto che Brunetta in cerca di una rivincita contro la natura, a me sembrano francamente cose un po' veterocomuniste. No, veterocomuniste no, sono insomma sono sì, sono idee, per carità, sono idee, però ma idee, insomma, adesso voglio dire, non ho voluto insistere con Merlo perché io lascio che si dicano le cose e poi lascio anche ogni tanto, non sempre, che gli ascoltatori le facciano proprie e poi dicono a loro, ma insomma Merlo ha contestato a Brunetta l'insulto, in realtà anche lui ha insultato Brunetta in qualche modo, no? Francamente ho rilevato questa contraddizione. La seconda contraddizione invece l'ho rilevata oggi nell'ascoltare le parole del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Certo, i magistrati devono essere sottoposti solo alla legge. Io, parafrasando Leonardo Sciascia, invece devo dire che la Costituzione, per quanto mi riguarda, è già di carta adesso, in questo momento, perché se lei fa una considerazione molto semplice, la politica è dappertutto, anche nella magistratura. La politica quindi fa le leggi, le esegue e questo rientra nelle sue prerogative. E adesso praticamente la politica è anche all'interno della magistratura e quindi pretende di applicarle le leggi. Che cosa intendo dire? Il fatto che i magistrati siano subordinati soltanto alla legge è sicuramente la loro prerogativa principale, tenuto conto che i magistrati sono un ordine, non un potere politico, ma proprio per questo motivo evocare anche soltanto lontanamente l'ipotesi di una levata di scudi, di uno sciopero, è stata usata questa parola, lo sciopero, ecco, insomma, contro un'ipotesi di legge, a me sembra francamente molto grave. Simone, lei ha perfettamente ragione su questo. Garibaldi fu ferito. Fu ferita di una gamba, Garibaldi che comanda i suoi soldati, per Garibaldi, viva Garibaldi che si ferì. Allora, dopo aver sentito Francesco Merlo contro e come contro Brunetta, questa idea di mandare i mille in una nuova spedizione dei mille per risolvere i problemi del Sud, è uno slogan, per carità, nel libro di Brunetta c'è naturalmente altro. Dopo aver sentito gli ascoltatori, mi sto facendo un'idea, che può darsi che abbia ragione Brunetta. Insomma, la situazione al Sud deve essere risolta anche in maniera rivoluzionaria. E questa è una delle tante cose, forse non è stato il primo a dirlo, rivoluzionarie. Cambiare il Sud cambiando l'intera classe dirigente. Difficile da farsi. Forse più bello a dirsi. Filippo Facci, buonasera. Buonasera a tutti. Voglio raccogliere una provocazione molto bella che Filippo Facci oggi ha fatto su Libero e la voglio anche, non dico applicare, ma secondo me se ne può discutere anche relativamente al caso Marrazzo. Però partiamo dalla provocazione che ha fatto Filippo oggi su Libero, dicendo, insomma, se sopportiamo, se siamo in grado di sopportare lo scudo fiscale, che sostanzialmente è un, non stiamo dando un giudizio sul provvedimento del governo, ma lo scudo fiscale è un ritorno in Italia di capitali illecitamente portati all'estero, no? Allora perché non possiamo accettare di incassare denari dal sesso, cioè dire la questione della legalizzazione della prostituzione, di cui non si parla più, un argomento tabù. Io ricordo che l'ex prefetto di Roma, Achille Serra, un giorno, quando già era diventato, non so se deputato o senatore del Partito Democratico, disse, insomma, io a Roma farei un quartiere a luci rosse. L'avesse mai detto contro di lui tutti i politici, se destra, sinistra, Veltroni, all'epoca era sindaco di Roma, e la cosa finì lì. In Italia, insomma, resta questo tabù. Sì, anche se paradossalmente io capisco che venga definita provocazione questa, ma in teoria non lo è per niente. Cioè, su un piano razionale, lo scudo fiscale significa incassare del denaro illegale, insomma, farlo rientrare in Italia e legalizzarlo. Sì. Le prostitute, attenzione, non vanno legalizzate perché non sono illegali. Cioè, il mestiere della prostituta non è regolamentato, certo, ma non è illegale. Cioè, in Italia non è illegale essere una prostituta. È un reato. Lo sfruttamento, certo, della prostituzione. Adesso c'è questa legge, insomma, che vuole togliere dalle strade, insomma, come se fossero un problema di arredo urbano le prostitute, ma non è un reato E tuttavia noi da 51 anni, cioè da quando appunto ci fu la famosa legge Merlin, attendiamo che ci sia una regolamentazione della prostituzione. Io voglio sapere se è più morale lo scudo fiscale che fa rientrare denaro illegale oppure semplicemente far pagare le tasse come fanno in tutti, non in tutti, ma in molti paesi europei dove le prostitute esistono, come esattamente esistono da noi perché nessuno le arresta, e tuttavia pagano le tasse come delle professioniste che sono. Cioè, non riesco a capire, voglio dire, mi sembra una cosa estremamente logica. Naturalmente, no, non vivo sulla luna e so che il problema è che questo, la classe politica si imbarazza, ma non si dice che abbiamo bisogno di soldi, facciamo pagare le tasse a chi deve. La cosa più incredibile, tra l'altro, è che questa, diciamo, battaglia, questo principio che poi può essere declinato in mille modi, che è quello di regolamentare la prostituzione, dovrebbe essere fatto proprio innanzitutto dalla sinistra, la sinistra dei diritti civili, delle battaglie progressiste. Invece, in realtà, i leader del Partito Democratico non hanno mai fatto una vera battaglia nazionale su questo tema. Addirittura oggi chi è favorevole sono i pochissimi esponenti della centrodestra, diciamo, liberale, no? In Italia, ma insomma sono piccoli e sparuti gruppi che sostengono la necessità di regolamentare. Cioè, paradossalmente Repubblica è il giornale più bigotto d'Italia, che fa tragedie se un tizio è andato con una escort, Berlusconi è un altro, Marrazzo è andato con un trans. Però io vorrei aggiungere una cosa, cioè l'unico discriminante per me, cittadino laico di questo paese, è ciò che è legale e ciò che non lo è. Io oggi mi sono divertito a ricostruire tre casi veloci del 2008, cioè il governatore di New York, che l'anno scorso è stato intercettato mentre combinava con una prostituta e si è dimesso. Sì, spizza. Perché? Perché nel suo stato la prostituzione era illegale. Poi c'era un ministro finlandese che spediva sms piccanti a una spogliarellista che vabbè, poi se li ha diffusi, se li ha rivenduti, e si è dimesso pure lui per una questione morale, ed è un caso diverso. E poi c'è, vabbè, il caso più noto è quello di Max Mosley, cioè il presidente della Federazione Internazionale di Automobilismo, che compariva in quel video, che non era illegale, anzi semmai è stato illegale spiarli. Cioè, qual è la morale, secondo me? Voglio dire, se in una condotta la discriminante non è la legalità, ma il fatto che questa condotta venga pubblicizzata, cioè è finita. Cioè, se la morale mediatica, insomma, supera in importanza il rispetto della legge, è finita, basta. Cioè, cosa succederà in Italia? I personaggi pubblici, insomma, sarà sempre più difficile che sfuggano a una totale trasparenza, e quindi sarà sempre più difficile che ce la concedano. E siccome questo è già un paese di doppia morale, notoriamente, cioè mettiamoci in testa, gli scandali politico-sessuali non ci toglieremo più per chissà quanto tempo, non è purtroppo una moda del mondo. Pare che oggi, in questi giorni, ci sia una sorta di terrore in Parlamento per cose che possono venire fuori. Però dicevo, il collegamento col caso Marrazzo, oggi ho fatto una riflessione. In realtà a cosa stiamo assistendo in questi giorni? Ad una situazione di fatto tollerata, perché in questo Transgate di Marrazzo abbiamo scoperto che c'è un intero palazzo, noi l'abbiamo scoperto, io da Milano, anche tu da Milano, ma probabilmente i romani lo sanno, non so quanti lo sappiano, che a Via Gradoli, zona nord della capitale, c'è un intero palazzo abitato da donne e uomini che vendono il loro corpo. Si assiste 24 ore su 24 a un via vai di clienti. La polizia, che tollera tutto questo, non solo, ma utilizza queste persone come informatori, come magari collaboratori in alcune indagini. Non solo, la maggior parte di queste prostitute, con la legge sulla clandestinità come reato, sono clandestini. E altro paradosso ancora, alcune di queste qua vogliono rimanere in Italia, per restare in Italia diventano sostanzialmente collaboratori della giustizia, andando a testimoniare dei magistrati. Insomma, un pasticcio incredibile, con leggi inapplicate, leggi tollerate, leggi inesistenti sulla prostituzione. Insomma, questa Natalino, la legge non scritta che sta dominando tutto è la solita, è quella: si fa ma non si dice. Cioè, sembra che il sottotitolo di tutto quanto sia che in Italia tu puoi fare tutto quello che vuoi, basta che non ti faccia beccare, quindi sesso eccetera eccetera in questo caso. E dopodiché, vabbè, se ti beccano, soprattutto a quanto pare, se sei diventato un moralista di sinistra, niente, devi tenerne conto e ti devi dimettere. Cioè, io non so più in che paese sto vivendo. Natalì, che è considerato, non so se ha torto o ha ragione, ma sarà un'esagerazione della stampa, il fidanzato di Marrazzo, diceva: non sarà espulso perché la sua testimonianza viene considerata fondamentale. Insomma, questa qua è, o questo, clandestino, clandestina, fate voi. prostituta, invisibile al fisco, perché naturalmente non può, questi, i soldi... Eppure che, dell'attrice. Ed è, ma decisiva nelle indagini, dunque resta in Italia. Insomma, è il massimo dell'ipocrisia, secondo me. Tutte, sì, sì, sì. Tutte cioè, messe io, insieme. Vabbè, cioè, non so cosa devo commentare, cioè, voglio no, dire... Cioè, chiudiamo con... Però lo scudo fiscale va bene. Chiudiamo con questa canzone, grazie. Si fa, ma non si dice, si fa... Ma non si dice, e chi l'ha fatto tace, lo nega e fa il mendace, e non vi dice mai la verità. Si fa, ma non si dice, si fa, poi si rifà, però nessuno lo dice, ma si sa. Che Franco fa, da Roma, Franco buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Dunque, io vorrei parlare del... video shock che è stato mandato in onda questa mattina. Io ritengo che sia una cosa scandalosa da un punto di vista etico, oltre che morale. Perché, mi e scusi, è la prima considerazione. Mandato in onda dai telegiornali, lei dice? No, è stato mandato in onda, tra l'altro... Sì, da tutti i telegiornali, su internet, eccetera. Esatto. Io trovo un po' ipocrita, Franco, mi scusi. Franco, io trovo un po' ipocrita. Devo dire, questa mattina l'ho visto su un sito, non mi ricordo di quale testata, anche del Sole 24 Ore, e c'era scritto sotto, credo, l'avvertenza per un video, insomma, che ha un contenuto scioccante, dunque consigliato, sconsigliato ai minorenni, una cosa di esatto. Questo tipo. Io questo lo trovo una cosa molto ipocrita, come se un minorenne vedesse su internet una cosa di questo tipo ci va immediatamente a vederlo, naturalmente, no? Esatto. E questa considerazione non è mai stata fatta e soprattutto nessuno ha pensato di censurare questo aspetto. Ma no, ma questo è sbagliato secondo me, perché bisogna censurare questo video? Invece è molto significativo, non è una sorpresa un video di questo tipo, perché cioè, non mi pare una cosa scioccante, gli omicidi sono gli omicidi. Si rende conto che possono vederlo anche ragazzini di 5, 6, 7, guarda, io sono rimasto turbato. I ragazzini di 5 anni si spera che non vadano su internet, abbia pazienza. No, ma su internet no. Ma non guardino nemmeno il telegiornale. Comunque, ma come no? Ma all'ora di colazione, all'una e mezza, i ragazzini non possono non vedere, certamente non tutti, ma una parte vedranno. E quindi io credo che questo sia un aspetto veramente negativo, perché il diritto di cronaca, d'accordo, ma qui è il diritto di cronaca o qualche cos'altro. E poi un appendice che ovviamente nulla ha a che vedere con questa vicenda, ma che comunque si collega a questa vicenda. La Procura della Repubblica vuole il testimone, ma la Procura della Repubblica ha detto che da questo momento in poi il testimone cambierà vita. Io questo è un appendice che ovviamente non ha nulla a che vedere col primo tema. Però Franco, naturalmente quando uno testimonia si spera che venga in qualche modo aiutato o protetto in questa testimonianza, si spera. La ringrazio. Comunque la sua provocazione è interessante, il fatto che sia stato mandato il video senza, dai telegiornali, senza credo nessuna avvertenza. Per in realtà poi non è così scioccante, c'è uno che spara, non si vede, non c'è uno spargimento di sangue, certo è un omicidio. Franco, lei ha bambini? E io no, ho un ragazzo che sta studiando, però ovviamente questa cosa ne abbiamo parlato e veramente è rimasto scioccato. E quindi di fronte a questa cosa mi è sembrato doveroso, se non altro, segnalare questa... No, ma la ringrazio. I telegiornali, appunto, TG5. Berlusconi, cominciata la ripresa, il peggio è passato, Tremonti, rischio derivati ancora presente, Draghi, riforme urgenti, l'economia USA torna a crescere, PIL su del 3,5%. A Napoli l'esecuzione di un uomo ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un bar, il video shock diffuso dalla procura per identificare il killer della camorra. Due morti oggi a Napoli, un altro a Rimini, salite a 11 le vittime dell'influenza A in Italia, Fazio, con la Spagna siamo i più colpiti in Europa. Sequestrato a Fiumicino un carico di chetamina, 3 arresti. È la droga dello stupro, sempre più diffusa tra i giovani nei rave party. Ovociti e spermatozoi creati da cellule staminali. Secondo una ricerca americana, in futuro potrebbero nascere bambini senza l'atto procreativo. Sempre di corsa tra famiglia, casa e lavoro. Secondo una ricerca, le donne lavorano più degli uomini, precisamente 3 anni e 3 mesi in più nell'arco della vita. Roma, Venezia, Napoli e molte altre meraviglie meno conosciute. Matteo Marzotto, ecco gli spot dell'Ente Nazionale del Turismo per rilanciare l'Italia. Va bene, allora il titolo questa sera di Blob è Transumanza. Linguaggio non è un'offesa. Alba, ovviamente è una trans. Piero, siamo d'accordo, la chiamiamo una nella trans. La civiltà umana ciascuno si fa chiamare come vuole. Gran mix. Cosa deve fare una donna per non perdere il marito? Moira. deve essere sempre profumata, vestita bene, che non puzza di mangiare, che quando vede passare una ragazza profumata il marito fa così. Porco! Ma non, tu n'as rien compris, je t'ai dit que je suis une femme! Ma state zitta, brutto finocchio! Mais dis donc, qu'est-ce que tu veux? La preuve? Tiens! Totta fermo, sai che te do un cazzotto in bocca! Arrazzare, verbo transitivo, significato accendere, fare esplodere come un razzo, eccitare sessualmente. Fare esplodere come un razzo, eccitare sessualmente, questo ci porta direttamente a trans e trav, vedete il rotocalco delle signore che sotto sotto si chiamano Ugo, e infatti c'è questo signore che giustamente dice... Queste scorie che presenta addirittura trans and trav. Che gli vuoi dire? Adesso, che... Va bene, va bene, va bene. Che gli vorresti fare? TG1. Influenza A, 3 vittime a Napoli, tutte affette da altre patologie. Fazio, prima fase della pandemia, ma mortalità resta bassa. L'economia americana torna a crescere, la recessione rallenta, dice il presidente Obama, ma c'è ancora molto da fare. Crisi, Berlusconi, la ripresa è avviata, finanziaria, emendamento PDL e Lega, tagli, IRAP fino a 4 miliardi, il tesoro per ora frena. Così uccide la camorra in un video l'esecuzione di un boss a Napoli, immagini diffuse per identificare killer e complice. Troppe assenze per malattia tra i dipendenti pubblici, Brunetta introduce fasce orarie più lunghe per le visite fiscali. Italia all'avanguardia con il telefonino Bancomat, dal 2010 ci permetterà di pagare le piccole spese fino a 15 euro. La 7, sentiamo anche i titoli. Un video shock diffuso dalla Procura di Napoli mostra un camorrista che nel rione sanità uccide un uomo con 3 colpi di pistola tra la schiena e la nuca davanti ai clienti di un bar. I magistrati chiedono aiuto per identificare l'assassino. Torna a crescere l'economia statunitense, ma Obama è cauto. In Italia, nella giornata del risparmio, Berlusconi afferma che la crisi è dietro le spalle, ma il governatore Draghi esprime dubbi sulla stabilità della ripresa. Spermatozoi e ovociti ottenuti da cellule staminali e embrionali è il rivoluzionario risultato raggiunto da un gruppo di ricercatori statunitensi, una scoperta che fa discutere ma che potrebbe offrire nuove opportunità alle coppie sterili. E il calcio, crisi profonda per Roma e Lazio, tutte e due in zona retrocessione dopo 10 giorni. Va bene, dove andiamo? Andiamo a Catanzaro, Remigio, anzi voglio farvi sentire... Ancora Blob. Stai studiando con mitico film di Totò, in cui Totò si traveste da donna per evitare di pagare l'affitto. Remigio da Catanzaro, buonasera. Buonasera, mi sentite? Sì, dica Remigio. Sì, io vorrei, guardi, io ho fatto qualche libro difficilmente. Mi è costato moltissimo. Vorrei sapere se questo, senza aspetta, se questo Brunetta cos'è, un disoccupato? No, è un ministro. Scrivere 2 libri in un anno significa che ha moltissimo tempo, Può darsi, ha non lo so. Lavoro leggero, ha un lavoro leggero. Cioè, lei dice che per scrivere 2 libri così impegnativi come ha fatto è incompatibile col mestiere di ministro. Vabbè, c'è anche uno staff. Remigio, c'è anche uno staff evidentemente che lavora per lui, no? Forse l'ha fatto lo staff, va bene, oggi lo so così per sapere. Poi voglio chiedere un'altra cosa. Io lavoro in Calabria, nei punti critici ci sono sempre e quasi sempre imprese di tipo di settentrionale. Quindi l'imbroglio dell'appalto, attenzione, i settentrionali vuole sapere cosa diceva Bonanni quando è venuto qui a Catanzaro. Bonanni dalla CISL, ecco, non uno qualsiasi. Sì, che diceva? Diceva che le imprese settentrionali si rivolgono al malaffare per ottenere degli appalti sotto costo. E quindi, come dire, solo il mafioso può accettare che deve riciclare. Per cui figuriamoci... Quindi, cosa voglio dire? Il settentrionale mi sembra l'artefice, non tanto quello che può risolvere, e bisogna stare molto attenti. Va bene, grazie. Flavia, provincia di Trapani, sempre dal sud. Eccomi, dunque, buonasera, mi sentite? Buonasera, sì, la sentiamo, dica. Allora, dunque, io volevo fare una provocazione, visto che lei è così bravo a provocare. Volevo, a me della vicenda Marrazzo aveva interessato soprattutto come Berlusconi era venuto a sapere di questa cosa, e avevo trovato tutta la vicenda di chi e della Mondadori molto inquietante. E mi domando, ma noi abbiamo una classe politica autonoma o è una classe politica che quando ha uno scheletro nell'armadio è sottoposta a questo genere possibile ricatto? Non voglio dire, anzi, Berlusconi in questo istanza si è comportato come un vero gentleman, non posso che riconoscerlo. Guardi, però, è una domanda un po' è una domanda un po' generica, mi scusi, cioè la classe politica italiana alcuni episodi della storia recente. Perché la sinistra non ha mai passato una legge sul conflitto di interessi? Perché sono tutti scemi o perché comunque c'è qualche cosa, qualche scheletro nell'armadio di qualcuno che al momento opportuno non ha potuto... Non lo so, guardi, mi sembra... Guardi, fanta politica, ma io sono una che vuole provocare. Va bene, grazie. Massimo da Siena, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Io innanzitutto volevo sostenere Filippo Facci con la sua idea che mi sembra... con la sua teoria che mi sembra veramente geniale, e volevo riallacciarmi al problema che io intravedo nella nostra politica, che è quello del politicamente corretto. Cioè qualunque cosa si dice che non è politicamente corretto diventa un problema. Allora Brunetta, se dice che ci vuole una spedizione dei 1000, non lo dice in modo corretto, ma dice una cosa che tutti vediamo. Quando un'azienda va male e ci sono due stabilimenti, uno da una parte uno va bene o meno peggio, da una parte va male e si sposta al management. Ora io dico, come si fa a fare un'affermazione come quella di Merlo, va bene, con un'insinuazione così bassa, cioè dire che Brunetta vuole dal mondo quello che dalla natura, la natura non gli ha dato? E poi faccio notare che questa sua affermazione ha dato il là poi all'altro intervento che ha citato, la famosa canzone di De Gregori, dove il famoso nano era più stronzo degli altri perché aveva il famoso cuore più vicino, eccetera eccetera. Dico, queste sono cose inaccettabili, perché tutto si potrà dire, meno che Brunetta non ha portato finalmente una ventata di idee, di attività positiva in un mondo che era stantio, vecchio da anni. Io veramente sono un ammiratore di Brunetta, mi è capitato anche di incontrarla all'aeroporto e devo dire che è imbarazzante essere avere un certo tipo di fisico e doversi sentire attaccati per questo, altro che gusti sessuali. Cioè qui si sta mettendo alla berlina un difetto, che poi non è un difetto, una caratteristica fisica di Brunetta, e si dimentica. Perché non ho capito, Merlo si è riferito a qualche caratteristica fisica di Brunetta? Ma sì, perché lui ha detto, ha insinuato, siccome Brunetta non può avere dalla natura... Allora deve trovare una rivincita, no? Ma queste sono cose gravi, perché, ripeto, l'ascoltatore che ha seguito ha fatto subito il riferimento alla canzone di De Gregori, che lei conosce benissimo. Allora io dico, io sono un elettore del centrodestra, ma non perché sono, innamorato di Berlusconi, ma perché sinceramente nell'offerta che c'è oggi... Vabbè, ho capito, ma insomma adesso lasciamo perdere perché lei è un elettore di Berlusconi. Però ho afferrato, lei ha trovato offensive nei confronti di Brunetta le argomentazioni di Merlo. In realtà Merlo nella prima parte dell'intervento ha detto, vabbè, non è una questione di uomini ma di risorse, di opportunità, vabbè, e dunque i 1000 non c'entrano nulla, non c'entra niente mandare uomini del nord al sud. Poi ha utilizzato delle frasi pesanti, delle parole pesanti nei confronti di Brunetta. La ringrazio. Mauro da Treviso. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Io non le dico che non sono d'accordo con lei spesso e quindi le faccio i complimenti, che lo trovo un po' a volte strano. E nulla, volevo dire, su Berlusconi che attacca Bersani, che interviene in trasmissione a Badarò, eccetera, eccetera. Mi sembra quasi che lui abbia bisogno di una contrapposizione più forte, che ahimè in questo momento nella sinistra non c'è. e quindi si va un po' a cercare le contrapposizioni, perché probabilmente lui quando viene attaccato non si sa per quale strano motivo riesce a diventare molto più forte, questa è un'abilità che ha. E per quanto riguarda Di Pietro, volevo dire che è evidentemente ridicolo, ma gliel'ha detto Fazio nel momento in cui ha detto che non è mai in televisione, ma è anche vero che quella è eccezionale, uno dei passaggi migliori degli, sì, ultimi, degli ultimi tempi. Fazio, lo stesso Fazio che non dà mai giudizi, è sempre così, esatto, no? Esatto. Dice, ma come, scusi, lei non va mai in televisione? È dappertutto. No, ma poi è forte perché Fazio lo ha detto con un intercalare molto semplice, senza attacco, col suo stile, nel suo modo. Lo ha detto solo per dire, ma gli ha fatto quasi una domanda, no? Con retorica. Sì, Mauro, risentiamolo perché è troppo bello, sono innamorato, come lei sa, ci ho fatto anche una sigla. Non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno. Come non che mi dà spazio. Mai? Come non ascoltano mai? Mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione, scusa. Ma quando mai? Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Come in molti ci avete segnalato, la canzone dell'ascoltatore con questo accostamento impertinente, posso dirlo, è un giudice di De André, un giudice di De André. Va bene, eccola qua, prosegue. Procuratore per imboccare la strada che dalle panche d'una cattedrale. E parla di un giudice, diciamo, rancoroso, spietato, perché nano e ha il cuore troppo, troppo vicino. Avete sentito? Arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia. Ed è un po' quello che dicevano a proposito di Brunetta, diciamola tutta, l'ascoltatore da Bologna e Francesco Merlo da Milano. Mi diceva vostro onore e di affidarli al boia. Naturalmente per me non è così, sia chiaro. Mario da Brescia, eccoci. Mario, mi sente? Sì, le sento bene. Eccoci. Grandissimo Brunetta, vediamo se riusciamo ad attaccare un po' di fuoco a qualche coda di paglia, compresa quella del dottor Merlo. Perché non proviamo una volta con la colonizzazione inversa? Cioè? Cioè, tutta la burocrazia, le forze dell'ordine, tutti gli uffici statali, le poste, sono sempre state piene di meridionali. Qual è il problema? Guardi che, Mario, intendiamoci, io sono sempre un grande ammiratore di Brunetta, anche quest'idea ricominciare tutto da capo. Qualcuno ha detto addirittura come Rossi per denigrare Brunetta, non esageriamo, non c'entra nulla. Insomma, questa idea di fare un po' tabula rasa e di portare alle leve del comando gente, diciamo, dal nord, o comunque gente che non c'entri niente, può essere così bella a dirsi, molto difficile però da farsi concretamente. Cosa significa? Poi le origini di molte persone che stanno a nord sono meridionali, come si fa a scegliere? E poi chi portiamo? Chi? Dirigenti della pubblica amministrazione? Politici no, perché bisogna prendere i voti e farsi eleggere. Guardi Cruciani, ci portiamo semplicemente delle persone che abbiano la cultura del lavoro, stop. Solo ho capito, ma dove, in quali posti, Mario? Guardi, le posso fare un esempio rapidissimo? Sì, sì. anni fa io sono stato con mio padre a fare delle ferie in Calabria. Sì. Abbiamo visto delle spiagge bellissime, stupende, chilometriche, profonde centinaia di metri. C'era ogni genere di porcheria, ok? C'era sporco, lavatrici, c'era di tutto. Siamo andati, ci siamo guardati e abbiamo detto, ma dove siamo finiti? Abbiamo girato un bel po' di spiagge, erano tutte nelle stesse condizioni. E lì non c'entrano niente i borboni, non c'entra niente il mare che porta lo sporco, lì è voglia di mantenere bene il territorio. Siamo andati poi in però alcune cose le sappiamo, Mario. Le sappiamo, però bisogna avere anche ho capito, però certe cose, sì, no? Sì, ma va bene. Lasci finire, prego, solo un attimo. Prego. Siamo andati in comune, siamo andati a berci qualcosa e abbiamo visto delle orde di lavoratori socialmente inutili fermi al bar e abbiamo chiesto, ma siete in pausa? No, ok, che pausa? No, noi siamo qua, abbiamo finito il nostro lavoro, un'oretta, adesso abbiamo ancora 3 o 4 ore. È quello il discorso. Mandiamo veramente della gente abituata a far rendere le persone e smettiamola di continuare a dire ma io ho aiutato tanta gente, ho aiutato tanta povera gente, ho trovato il lavoro tanta povera gente. Il lavoro deve rendere, se no è solo clientela. Se non si esce da questa logica qua, fra 40 anni saremo qua. Su questo sono d'accordo con lei, Mario, però concretamente che significa una nuova spedizione dei 1000 al sud? Cruciani, cominciamo a me la declini concretamente, per altrimenti restano slogan. Ma insomma, facciamo un concorso, cominciamo a dire, bene, 3.000 euro al mese e la garanzia di non essere toccati, perché uno che va a fare un lavoro di questo genere, è riservato a uomini del nord per quali compiti al sud? Diciamo a persone residenti al nord, diciamo così, no? Uomini del nord un po' generico, persone residenti al nord, manager d'azienda, non so per fare che cosa, per esempio, per metterli a capo delle, di tutti gli enti locali che ci sono giù? Ma no, allora le faccio un altro brevissimo esempio, poi lascio lo spazio agli altri ascoltatori. Puntate di Report fanno vedere, mi sembra a Catania, che quando piove si allaga tutto, no? Lì c'erano i faldoni con la vita, faldoni penali con la vita della gente lì dentro, con le cose che si scolorivano e la gente che diceva qua quando piove si allaga tutto. Cazzo, ma io dico, ma porco cane, ma prendete 4 bancali, sollevate sti cavolo di faldoni con la vita della gente dentro, prendeteli, metteteli sopra che intanto non si bagnano, poi farete tutti i ricorsi che vorrete perché non si riescono a trovare i soldi per cambiare il tetto. Operatività, cultura del lavoro che noi abbiamo e qualcun altro invece probabilmente ha un po' troppo coda di palle. Lei ancora non mi ha spiegato però in che posto metterebbe i 1000 dal nord, in che posti, Cominciamo, manager delle grandi, che le rivoluzioni manager delle grandi città, che cosa? I ruoli decisionali, dice lei. Allora, vogliamo cominciare a prendere i forestali della Calabria e dire, bene, prendiamone 1000, diamoli in mano a un alpino. Diamoli in mano a qualcuno che ha dimostrato di saper gestire le persone. Ho capito molto bene. Per esempio, lei dice perché il comandante, magari viene dal nord il comandante delle guardie forestali della Calabria, non lo sappiamo, è probabile che sia così, non è detto che sia un calabrese. Bene, Mario, grazie. Arrivederci. Marco da Rimini, buonasera, poi andiamo a Rieti, in provincia di Bologna, a Perugia. Marco. Buonasera, mi sente? Sì, la sento, dica. Ecco, no, io facevo questa riflessione, faccio una brevissima premessa biografica, mio padre è siciliano, quindi non sono afflitto da fantasmi padani, non bevo acqua del fiasco del Po, però secondo me l'aspetto cultura che diceva questo signore prima ha molto del vero, secondo me la cultura meridionale, la cultura del sud del mondo non è adeguata allo sviluppo in termini moderni, perché per essere adeguata allo sviluppo in termini moderni devi in un certo senso tradire se stessa. Il sud è pieno di intelligenze meravigliose, però trovano collocazione nel mondo moderno solo quando lasciano il sud, e credo che l'unica possibile invasione di mille sarebbe questi meridionali immigrati, illuminati tra virgolette, che tornano e capendo il loro stesso meridione possono portare un elemento di novità. È un mancato senso di cambiamento che c'è nel meridione, questo è quello che ci portiamo dentro. Va bene, grazie. Da Rieti, Dino, buonasera. Buonasera a tutti. Dica. Niente, io volevo dire che secondo me Brunetta fa il depistatore, nel senso che comunque sia è un provocatore che vuole solamente far cambiare o spostare gli obiettivi su risolta i problemi reali che ha portato questo governo con annunci e situazioni provocatorie che praticamente fanno spostare i discorsi dai problemi reali. Dino, questa è una sciocchezza, lei lo sa bene che è una sciocchezza, non c'entra nulla. Brunetta ha fatto... C'è stato appena ieri una manifestazione delle forze di polizia, sì, che hanno praticamente protestato per tagli di 3 miliardi alle forze di polizia, appunto, mentre invece c'è questo governo che ha fatto una campagna elettorale sulla sicurezza. E questo è, sì, ma che c'entra, scusi un attimo, che c'entra Brunetta con e il suo libro in cui si parla del Sud con le proteste dei sindacati, della polizia, delle forze dell'ordine sui tagli? È che il suo atteggiamento è solamente, diciamo, provocatorio e che tenta in tutti i modi. Scusi, Brunetta ha fatto un libro in cui parla del Sud, si può contestare o meno, ma il depistaggio non lo vedo. La ringrazio, Dino, mi scusi, però alcune volte ci vuole, perché dov'è il depistaggio, nei confronti di cosa, perché cosa, di quale depistaggio stiamo parlando? È stato intervistato oggi dal Corriere della Sera, ha detto alcune cose al Corriere della Sera a Sergio Rizzo, da qui la discussione sui mille. Ci sono i titoli del TG2, andiamo. Le immagini sconvolgenti di un delitto di camorra in strada a Napoli, al TG2 il procuratore le abbiamo diffuse, non avevamo scelta, tanti hanno visto, nessuno collabora. Berlusconi nella giornata del risparmio, il peggio alle nostre spalle, la ripresa sia pur lentamente iniziata, segni positivi dagli Stati Uniti, cresce l'economia ma la strada è ancora lunga, dice Obama. Quinto morto per influenza a Napoli, era un medico, 11 vittime nel nostro paese, Fazio, record di casi in Italia e Spagna ma ogni allarme è ingiustificato. Non era la nave dei veleni il relitto individuato al largo delle coste calabresi, ma una nave passeggeri affondata nel 1917. Il ministro Prestigiacomo, nessuna traccia di radioattività. Torna la signora della canzone italiana, Mina, con un nuovo album intitolato Facile, testi scritti da Malgioglio Mingardi e dal nipotino Axel, e come sempre incanta e seduce. Allora, ascoltatori, naturalmente per quest'ultima parte della zanzara, ma dopo torneremo su alcune frasi del giorno, le più significative. Claudio, provincia di Bologna, buonasera. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Mi sentite bene? Più o meno, sì. Sono in viva voce per questo e sai, sapete, stare in auto è meglio essere in viva voce. Dove si trova lei, Claudio, in questo momento? Sono in autostrada fra Firenze e Bologna. Com'è la situazione? Normale, tranquilla? Tranquilla, molto tranquilla, diretto a Bologna, diretto sud verso Firenze decisamente di meno, quantomeno in prossimità di Firenze. Ogni sera fa questa strada? No, però almeno una volta alla settimana vado verso la Toscana e questa è un'autostrada veramente impegnativa. Tormentata. Sì, decisamente. Ma il treno no, Prego? In treno no. Svolgo un tipo di lavoro che mi sono trovato a dover fare in treno, ma è stato un dramma perché ci sono spostarsi. Treni, puoi spostarsi, andare in Toscana per me non significa andare solo a Firenze, significa spostarmi a Pisa, Lucca, no, certo, Siena, certo. Quindi è impossibile. Impossibile, onestamente impossibile. Sono uno di quei tanti che si trovano nella malaugurata condizione di dover necessariamente utilizzare l'automobile anziché poter usufruire di un treno o di altri mezzi più tranquilli e più sicuri, perché l'automobile è diventata veramente poco sicura. Certo, ma a lei quando arriva di solito a destinazione? Chiedo scusa? Quando è che arriva a destinazione questa sera, per esempio? Ah, non c'è mai orario, io sono un responsabile commerciale e sa, dipende da che ora finisco e quanti chilometri mancano per tornare a casa. Certo, va bene Claudio, che mi voleva dire? Niente, io volevo parlare del discorso del ponte di Messina, ho sentito il commento di Francesco Merlo con il quale mi trovo d'accordo su una parte sicuramente, e cioè che il ponte di Messina è una grande opportunità e lo ritengo onestamente indispensabile. Siamo in pochi, Claudio, siamo in pochi. Non credo, io parlo in giro con tanta gente, lavoro nell'ambito edile e mi creda, siamo in tanti. Bah, non lo so. Certamente vi sono dei detrattori, quello è fuori discussione, come vi sono detrattori per qualunque cosa, qualunque ambito. e questo è legato anche al discorso di Brunetta, che sento tanto caldeggiato e vilipeso da una parte o dall'altra, e questa sera i vari commenti lo confermano. Fra l'altro, se mi permette, vorrei farne uno anch'io relativamente a Brunetta, e cioè che credo che questa persona si sia presa un impegno enorme, veramente enorme, perché... Sì, però resti sulla provocazione, chiamiamola così, di Brunetta di oggi, una nuova spedizione di 1000 per il Sud. Sì. Cioè il ricambio delle classi dirigenti, insomma, questo intendeva Brunetta. Allora, favorevole o contrario? Io ritengo che sia una cosa impercorribile, sicuramente una provocazione, non credo che possa essere... un qualche cosa di effettivamente realizzabile. Beh, questo è il problema. La ringrazio, Claudio, la ringrazio. No, aspetta. Mi dica. Parlare un attimo del ponte, perché l'ho detto, io lo ritengo veramente necessario. Allora? Ciò che non mi è piaciuto nel commento di Merlo è che abbia dimenticato che il governo precedente Berlusconi, intendo dire, aveva appaltato quel lavoro alla Impregilo, e che il ministro Pecoraro Scanio successivamente abbia disdetto quel contratto unilateralmente. Sì, Claudio, la questione è un po' più complessa in realtà. Il governo Prodi non era arrivato a nessun tipo di conclusione, c'era arrivato il governo Berlusconi nel 2006, poco prima delle elezioni, poi il governo Prodi bloccò tutto. Merlo se la prende con Berlusconi dicendo che in realtà poi utilizza il ponte come slogan, questo sicuramente è successo. Qualcosa di concreto, però Berlusconi sul ponte l'ha fatta. Ancora bisogna vedere quello che succederà, però non c'è dubbio che dal 2001 in poi la situazione sia stata rilanciata da Berlusconi. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza. Il TG2 sul video di Napoli. Perché la scelta di diffondere un video con immagini molto crude? Perché dal video si rilevano che nel bar c'erano diverse persone, quindi in un quartiere popoloso come quello della sanità assolutamente non si può pensare che nessuno ha visto, e per oggi, fino a oggi, nessuno si è presentato. D'altra parte, a noi manca quindi l'identificazione dell'autore dell'omicidio e del complice. Con questo video cerchiamo naturalmente di chiedere collaborazione ai cittadini che abbiano visto e che naturalmente non hanno nulla da temere, perché l'anonimato può essere assicurato purché ci diano notizie certe, sicure, dove poter un input per poter indirizzare le nostre indagini. Sono immagini che naturalmente dimostrano la tracotanza e l'arroganza di questi criminali, che naturalmente non temono nessuno, e quindi questo, proprio la reazione dei cittadini, potrebbe essere l'arma vincente in questa lotta alla criminalità organizzata o meno. Finora però, avete sentito, non è arrivata manco una telefonata. Roberto da Napoli, buonasera. Buonasera, salve. Lei che salve. Dice di questo video? Ma io non l'ho visto, però conoscendo la TV dei giorni d'oggi penso che sarà una cosa cruda sicuramente, perché ormai va in onda quello che faccio, che fa spettacolo. Io in questo caso, proprio... mi scusi Roberto, però lo spettacolo non c'entra nulla. Io non capisco le critiche anche dell'ascoltatore precedente e di altri sul fatto di mandare in onda quel video. Francamente sì. sono polemiche che non... Lo capisco. Io abito proprio nella zona sanità, io sì. Sono lì, in quella zona lì. Si stupisce del fatto che non sono arrivate telefonate? Ma no, assolutamente no. Saviano, sentiamo Saviano. Roberto, un attimo. È tutto sommato un'immagine abbastanza solita, purtroppo. E mi ha colpito la serena indifferenza delle persone intorno al cadavere. La motivazione è il terrore, la paura che possa esserci un palo che ti stia osservando. Questa normalità sia dell'esecuzione sia della reazione della gente dimostra la forza della camorra sul territorio. Dimostra che le organizzazioni criminali, nonostante tutti gli arresti degli ultimi anni, sono ancora forti e riescono tranquillamente a agire nel territorio e poter fare nel cuore della Napoli antica un'esecuzione in pieno giorno davanti a tutti. La Procura di Napoli ha diffuso questo video sperando anche nella collaborazione della gente per individuare il killer. Pensi che qualcuno si farà vivo? Non so se qualcuno si farà avanti, sicuramente sarà più facile vedere molti piuttosto che il singolo. E sarebbe bellissimo se nel quartiere Sanità ci fosse la possibilità di una specie di denuncia collettiva. C'è bisogno di uno scatto di orgoglio da parte dei napoletani. Lo scatto d'orgoglio non deve essere solo dei napoletani, ma dell'Italia tutta e soprattutto di una politica che ogni volta che si occupa di altro sta permettendo alle organizzazioni criminali di crescere. Va bene, questo era Roberto Saviano, ci sentiamo domani 18:30, ciao.